Nel fondo dei tuoi occhi io vedo il mare, di brezza leggera increspa lo sguardo mio, ma tu del canto amore mio non l'hai mai regalato. Ti prego un bacio, un solo bacio, e vai se vuoi, e vai amore, la strada tua sincera ti porta via, non ti voltare se non puoi chiamare, io ti credo, ricordami, sono il passato. Profondo l'orizzonte richiama il cuore, che battito sospende ancora nella tua voce, sospende la mente chiara ma pare l'immagine sbiadita di un sogno andato e solo sfiorato. Amabile il canto tuo, non è più mio e a te rinnovo la fede che ti accordai, una goccia luccica sul mare.